Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi parliamo di due scrittrici spagnole che hanno un grandissimo successo in Italia: Alicia Jiménez Bartlett, che ha creato il personaggio dell'ispettrice Petra Delicado, e Clara Sánchez, autrice nel 2011 del bestseller Il profumo delle foglie di limone. Ogni libro che scrivono queste due autrici è ormai un successo e arriva in poco tempo in vetta alle classifiche dei libri più venduti. Nell'ultimo romanzo della Bartlett, Gli onori di casa, l'ispettrice Petra Delicado, che è ormai un personaggio seriale della scrittrice spagnola, deve indagare su un cold case, l'omicidio di un imprenditore avvenuto 5 anni prima nella casa dove lui riceveva giovani prostitute. Le indagini portano Petra fino a Roma e così Alicia Jiménez Bartlett spiega la sua decisione di ambientare una parte della storia in Italia. Io volevo fare un omaggio ai miei lettori italiani, perché una cosa è il successo e un'altra l'amore. Io ho conosciuto il successo all'estero d'Italia, ma questo amore, questa maniera di farmi arrivare il calore, le loro impressioni, i lettori, questo non è successo a me che in Italia. E allora mi piaceva fare questo omaggio quasi quasi personale ai lettori italiani. Petra arriva in Italia con il suo fedelissimo Garzon perché sta indagando su un delitto di alcuni anni prima. Ci puoi spiegare così a grandi linee che cosa viene a fare a Roma? Viene perché stava persecutando, si dice, a un assassino. E questo viene da un caso reale. Una poliziotta spagnola che mi aiuta sempre, che è ispettora capo a Barcellona, io gli ho detto mi piacerebbe ambientare un caso a cavallo tra la Spagna e l'Italia. E mi dice, io l'ho fatto, se vuoi la mia esperienza. Naturalmente voglio la tua esperienza. E evidentemente mi ha spiegato questo caso reale e dopo io l'ho complicato un po' più, perché in la realtà è un caso che è stato risolto in una settimana. E allora io l'ho complicato di più, perché sennò il lettore non si diverte assolutamente niente. Ma è stato un imprenditore che è venuto ammassato quando frequentava una giovane prostituta. E questo è vero. E il suo fidanzato, entre virgolette, era italiano e una volta in questo vecchio è venuto morto, ha fuggito all'Italia e la mia amica, questa poliziotta, è andata via a portarlo in Spagna e trovarlo in Italia. Questa volta dunque ti sei ispirata ad un fatto di cronaca, un fatto vero. Ti era già capitato in passato e in genere scrivi romanzi di pura fantasia? Non sempre basato in la cronaca, in un mio libro. No, vedo problemi generali che preoccupano la gente e questo mi fa pensare a un caso concreto che è invenzione, che non è vero. E a volte vedo un caso in cronaca che mi sembra che è possibile di farlo in letteratura, ma sempre con cambiamenti importanti. Prendere un caso che la gente conosce con personaggi reali mi fa un po' paura, sono più rispettuosa, sai. Petra ha una vita sentimentale piuttosto, insomma, turbolenta. Adesso è in un momento in cui si è un po' tranquillizzata? Sì, ma la vita di Petra è turbolenta, ma lei sa come organizzarsi e questa volta è più tranquilla, ma non tanto, eh? E verrai come tante cose si scappano alla tranquillità. Che rapporto Alicia Jiménez Bartlett ha con il suo personaggio seriale, con Petra? La ami o ogni tanto così? La odi? Ti stanca? No, non mi stanca. È una bella amica perché io faccio altro tipo di libri che non sono gialli e allora che sono sempre più pessimiste, più, come dire, non profondo, ma il tema è più difficile. E quando ritorno a Petra mi sento bene, è come se un'amica mi aspettasse. Ma è vero che dal punto di vista della mia simpatia personale mi piace più Garzón che Petra, perché Petra si arrabbia con facilità e Garzón è un bell'uomo, tranquillo, con una bontà naturale. E questo mi fa ridere un po', è un amico ancora più amato che Petra. In Italia spesso viene definita la Camilleri spagnola. Tu lo leggi? Camilleri ti piace o cosa? Mi piace, è un maestro assoluto e ha una capacità di scrivere, di inventare, di fare nuovi libri che io non l'ho. E ha una età veramente Camilleri. Io mi chiedo come è possibile questo uomo fai tanto lavoro e buon lavoro in un tempo incredibile. Allora io lo ammiro pubblicamente e quando vedo questo parangone mi sento felicissima. Ma non è vero, io non sono tanto brava. Tu hai già in mente come evolverà la storia di Petra nei tuoi prossimi romanzi? Hai pensato per esempio se dovrà mai finire, come dovrà finire, o la vivi un po', come dire, alla giornata? La vivo un po' alla giornata. Per me un giallo deve essere una cosa che sorprende al lettore, e per sorprendere al lettore si deve sorprendere un po' lo scrittore. Fare un piano esatto delle cose che farà Petra, l'indagine, non lo faccio mai, perché io passo un anno e mezzo o 2 anni a fare un libro da Petra, un romanzo, e allora questo day by day mi deve portare un po' nuove cose che appariscono al momento, e lascio la porta sempre aperta e lascio passare un po' di aria nuova e vediamo cosa succede. E questa era la giallista spagnola Alicia Jiménez Bartlett, ora in libreria con Gli onori di casa, pubblicato da Sellerio. Altra scrittrice spagnola di grande successo da noi è Clara Sánchez, ora in libreria con Entra nella mia vita, pubblicato da Garzanti. Un libro scritto a due voci. Da una parte Veronica, una ragazza che cerca di scoprire un segreto custodito gelosamente dai suoi genitori, e dall'altra parte Laura, una vita apparentemente normale, ma in realtà minata anche in questo caso da una verità nascosta. Come è nata l'idea del romanzo? Sentiamo la Sánchez. In realtà, hace mucho tiempo, perché... Cuando yo tenía 20 años, una amiga mía de la misma edad. È un'idea che ho da tempo. Quando avevo 20 anni, una mia amica ha saputo di non essere figlia di suo padre e che era stata rapita. Lei soffrì tantissimo. Mi ricordo che mi chiese cosa ne avrei pensato se lei avesse cercato la sua vera famiglia. Io le dissi che non era il caso, che quello che aveva conosciuto come padre era suo padre e basta. Poi però in Spagna è scoppiato lo scandalo dei bambini rubati e ripensando a cosa era successo alla mia amica, ho iniziato a pensarla diversamente. Volevo raccontare i sentimenti legati a una vicenda del genere. La storia dei bambini scomparsi era intima, ma allo stesso tempo manipolata dalla propaganda dell'epoca. Mi novella sta situata in los años 80 e 90. Il mio romanzo è ambientato negli anni 80 e 90. Non sono fatti accaduti durante il dopoguerra, parliamo dei giorni nostri. E proprio in questo periodo si stanno processando suore, medici, infermiere che hanno avuto molto a che fare con questi casi e soprattutto una monaca sospettata di aver collaborato. Mi è sembrato un fatto tremendo rapire un bambino appena nato, falsificare i certificati. Anche questo libro dunque prende spunto dalla realtà, dalla cronaca, così come succedeva nel Profumo delle foglie di limone, che è stato il tuo più grande successo, almeno fino a quest'ora. Perché scegli sempre di raccontare storie di fiction, ma che prendono spunto proprio dalla cronaca? Sì, perché bueno, io vivo in un tempo determinato. Perché io vivo in un tempo determinato. A me interessa la vita che sto vivendo, con le avversità, con l'allegria, con le sue pene. E i fatti di quegli anni, rapire i neonati dicendo alle madri che il bambino era nato morto, per venderlo a un'altra famiglia, per fame di potere, per ambizione, è una cosa abbastanza forte da raccontare. A me non interessano gli eventi fini a se stessi, mi interessa questa bomba di emozioni che vivono le persone coinvolte in questi fatti, le famiglie, i bambini vittime di tutto questo. È questo che mi ha permesso di parlare delle passioni più grandi della vita. O sea, es que me ha permitido hablar de las pasiones más fuertes de la vida. E questa era Clara Sanchez, ora in libreria con Entra nella mia vita, pubblicato da Garzanti. E per gli appassionati di narrativa straniera vi segnalo che dal 6 marzo, ogni mercoledì insieme al Sole 24 Ore, ci saranno i romanzi americani più famosi. Il primo sarà Trilogia di New York di Paul Auster e poi Pastorale americana di Philip Roth, America Oggi di Carver, Rumore bianco di Don DeLillo. I libri saranno venduti a 9,90 €. Anche per oggi è tutto. Un saluto da Alessandra Tedesco.